A bordo campo. Sudafrica 2010. Nel cuore del mondiale. Note di blues, quello che sentite, che oggi ci accompagnano sulla strada verso Sudafrica 2010. Prima Coppa del Mondo di calcio ospitata da un paese africano, dal Sudafrica appunto. Un Sudafrica che guarda i mondiali di calcio, ma che guarda anche oltre quello che è stato il regime dell'apartheid, che proprio anche attraverso lo sport è stato sconfitto, battuto, superato e vinto. E in particolare attraverso il rugby. Tutti ricorderanno la vittoria degli Springboks nel 1995 sotto gli occhi di Nelson Mandela, un momento decisivo per la fondazione della Rainbow Nation, ma il rugby già aveva dato un contributo importantissimo nella lotta contro l'apartheid. Ce lo ricorda oggi Biagio Vinella, appassionato di rugby ma soprattutto attore, che ha raccontato nel suo spettacolo Rugby Blues una storia davvero particolare. È vero Biagio, ma chi era questo sudafricano bianco? Dan Chicky Watson, aiutaci un po' a capire. Allora, Dan Chicky Watson era un giocatore molto forte. Probabilmente non avrebbe fatto la storia degli Springboks come tanti altri giocatori, ma era un giocatore notevole, veramente solido, giocava flanker, terza linea, un grande placatore, ecco, diciamo, era riconosciuto come un grandissimo placatore, al punto che appunto a 16-17 anni lui venne chiamato nelle nazionali giovanili degli Springboks. E comunque dobbiamo localizzare questa cosa, pensare a questa cosa: il rugby in Sudafrica è una religione. È una religione, cioè è la religione dei bianchi questa, magari può sembrare blasfema questa cosa, ma chi gioca rugby in Sudafrica è una persona importante, soprattutto poi se incomincia già a mettere quella maglia con la gazzella, ecco. Questo è il, diciamo, l'idea, e parliamo, diciamo, degli anni 73, 74, 75, anni che, come tu ricordavi prima, erano anni molto difficili perché il Sudafrica, ecco, era uno stato che, in cui vigeva un'apartheid assurda, veramente, dove i non bianchi, perché diciamo la distinzione era quella, cioè non erano i neri e i bianchi, c'erano i non bianchi e c'erano i bianchi, erano praticamente i padroni, cioè una piccola minoranza di bianchi era padrona di una terra che non era loro, che secondo una loro supposizione Dio gli aveva assegnato, ma dove era scritta questa cosa nessuno lo sapeva, e avevano messo nella Costituzione, se si può chiamare Costituzione, queste vessazioni pazzesche, cioè i neri non potevano, i non bianchi non potevano entrare in un quartiere, non potevano praticamente fare nulla, non potevano accedere in alcune scuole, e questa era legge. Al punto che in quel periodo soprattutto vengono fuori i Bantusland, che in pratica sono delle riserve, come loro prendevano le varie etnie e li trasferivano all'interno del Sudafrica, ma questo per liberare la parte più bella del Sudafrica, perché era la loro terra. Questo era quello che c'era in quel momento. In questo Sudafrica Dan Chicky Watson si ritrova baciato da questo talento rugbistico straordinario, no? Certo, certo. E lui era veramente un giocatore, vi ripeto, molto forte, però aveva un piccolo difetto. Lui era amico dei neri, cioè la sua famiglia era una delle poche famiglie bianche che comunque non aveva non, assolutamente, cioè non trattava le persone di colore esattamente come se fossero i bianchi, perché comunque era così, cioè per loro era normale questo, era una cosa. Infatti Dan Chicky Watson giocava in cortile a pallone con gli altri, tutto quanto, no? Questa cosa veniva sopportata perché appunto Dan Chicky Watson era un giocatore molto forte e dava onore anche al quartiere in cui lui viveva. Vi ripeto che cos'è il rugby in Sudafrica, no? E quando lui appunto diventa entra nelle giovanili degli Springboks, diciamo, tutti accettano questa situazione. Dan Chicky Watson diventa sempre più forte, al punto che dopo qualche anno riceve la convocazione per il primo raduno per gli Springboks. In pratica lui dopo un mese neanche doveva andare a vestire la maglia degli Springboks. Intanto fa le partite ed è capitano del suo club. Un giornalista nero lo vede e lo conosce e va a fare un'intervista e parla con lui e gli chiede alla fine se secondo lui era giusto, gli fa questa domanda chiave: ma è giusto secondo te che i neri non possano giocare in una squadra degli Springboks? E lui risponde in maniera molto semplice: ma i neri non giocano a rugby. A che gli dice: no, guarda che i neri giocano a rugby, vieni con me. E allora questo giornalista nero prende lui e lo porta all'interno, di sera, di notte, diciamo, lo porta all'interno di questa bidonville. Prendono, vanno in questa township, portano all'interno, diciamo, con questa macchina, arrivano in uno spiazzo. In questo spiazzo vede che ci sono delle ombre che si muovono e Danchicky Wilson vede qualcosa che, insomma, appunto, si muove, queste ombre. Poi arrivano dei camioncini che illuminano questo spazio e vede che all'interno di questo spazio ci sono dei neri che giocano a rugby, e giocano a rugby pure bene. A che lui dice: caspita, allora c'è qualcosa che non funziona, mi hanno veramente ingannato, se non è vero. Tra l'altro Dan aveva preso dalla famiglia, no, l'abitudine di frequentare amicizie, certo, nere, certo. Sì, perché sì, veniva da una famiglia aperta e contraria, sì, all'apartheid. Assolutamente, infatti il papà aveva questi due o tre negozi dove appunto vendeva sia i bianchi che i neri, ma era sopportata questa cosa perché appunto comunque il figlio era anche una persona importante, per cui si chiudevano un attimino un occhio. E allora lì parte, dopo, quando lui vede questa cosa, parte la grande provocazione da parte del giornalista nero, che gli dice: ma perché non vieni qua a insegnare qualcosa a questi ragazzi neri che hanno bisogno di imparare questa cosa? E Danchicky accetta questa sfida, no? E allora lui continua ad allenarsi e nel frattempo, e la sera, prende e va in queste township ad allenare i ragazzi di colore. Caspita, scandalo, figurati, scandalo incredibile, perché figurati un bianco che va a insegnare rugby dai neri, una cosa, il club incomincia a creargli dei problemi incredibili, quasi lo vuole obbligare a smettere, gli dice: guarda che tu tra un mese diventerai uno Springbok, non puoi fare questo assolutamente. Ma lui è duro, perché lui ha deciso, visto che lui è contro l'apartheid, lui decide in quel momento che vuol fare una lotta a favore dei neri in questo modo, utilizzando l'unica cosa che sa fare realmente, che è giocare a rugby. Questa è la sua intuizione, e lui incomincia ad andare in questi campi. La società contraria a quello che è, investazioni di tutti i tipi, quello che è, arriva il giorno fatidico, lui deve partecipare a questo raduno e lui dice: no, non ci vado. Ti lascio immaginare che cosa può succedere, un giocatore bianco che rinuncia a vestire la maglia degli Springboks, uno scandalo incredibile, minacce, ma di tutte, gliene succedono di tutti i colori, no? Il padre deve chiudere i negozi, anche perché lui, soprattutto chiude i negozi perché lui a questo punto va avanti, cioè lui rinuncia, la federazione prima cosa che fa lo radia, cioè lui, tu non puoi più giocare a rugby, assolutamente, in Sudafrica non puoi più giocare. Lui continua a fare questa cosa qua nelle township, a portare appunto il rugby in tutte queste squadrette di ragazzi neri che giocano, e a un certo punto decide di fare la provocazione finale. Prende i ragazzi e porta questi ragazzi nel campo più importante, diciamo, del rugby sudafricano, dove era stata giocata la prima partita, una cattedrale, cioè non era un campo, era una cattedrale, era veramente come andare in Vaticano, ecco, un Vaticano, cioè tu puoi pensare, gente che entra in Vaticano e fa qualcosa. Lui porta di sera questi ragazzi a giocare in questo campo, nel giro di due minuti arrivano polizia, esercito, arrivano i cittadini con i bastoni, i cani, perché è una cosa del genere, era inaudita, è un sacrilegio. Ma scherzi, però i neri scappano, cioè era tutto quanto organizzato anche da lui, ragazzi, ma anche perché quelli lì non cercavano i neri da bastonare, i neri ne avevano quanti ne volevano, non era un problema, cercavano purtroppo. Lui riesce a scappare e in pratica lui e la sua famiglia si devono rifugiare all'interno della township, perché loro non possono più andare in giro, e questo va avanti negli anni, e qua ci si ricollega al discorso di quanto è importante delle volte l'opinione pubblica mondiale. Ecco, e in quegli anni fortunatamente l'opinione pubblica incomincia a isolare Sudafrica, incominciano a dire: no, tu non puoi mantenere un regime di apartheid in questa maniera, e le cose continuano ad andare avanti e vanno avanti, loro continuano all'interno di questa township a vendere quello che potevano, anche perché i fornitori non gli davano più niente. Però sopravvivono, continuano ad andare avanti a fare questa cosa. Finalmente poi arriviamo alla liberazione di Nelson Mandela, dopo 26 anni di carcere duro, dopo averne viste di tutti i colori. Siamo nel febbraio del 1990, Nelson Mandela, sì, torna un uomo libero dopo la lunga prigionia, esatto, tra Robben Island e altri, esatto, carceri, e il Sudafrica inizia a voltare pagina, finalmente, sì, a incamminarsi, sì, sulla strada della democrazia, della libertà. E infatti. E poi dopo nel 94 ci sono le elezioni, nel 95 diciamo, viene, il Sudafrica viene riammesso, diciamo, nel mondo civile, fortunatamente. Ecco, diciamo che perché racconto la storia di Dancicky Watson, che tutto sommato non è stato, vi ripeto, un giocatore storico, un giocatore... ma perché è un uomo che ha fatto una scelta importante. Cioè lui ha deciso a un certo punto di rinunciare a quello che aveva per portare avanti la sua battaglia di libertà. E forse perché io sono appassionato di rugby, mi piace questa idea di questo uomo che utilizza il rugby per portare avanti questa cosa. Ecco. Beh, ci emozionano le parole di Biagio Vinella e la storia, la vita di Dancicky Watson, uomo e campione che seppe rinunciare ai suoi sogni di gloria, al suo amore per la palla ovale, in nome dell'amore per la propria nazione libera, democratica, multietnica. E chissà, credo proprio che questa storia sia anche ben augurante per il Sudafrica che sta per ospitare questa Coppa del Mondo 2010, no? Sappiamo quanto sia forte lo show business, quanto il calcio col suo spettacolo, il suo giro di milioni di euro sia a volte anche una festa per pochi. Speriamo davvero che alla luce di questi esempi il primo mondiale sudafricano della storia possa invece lasciare una traccia importante nella cultura africana, sudafricana, e un'eredità significativa per poter poi ritrovarci dopo la finalissima con un paese e un Sudafrica migliore. Grazie intanto a Biagio Vinella per averci raccontato questa storia sulle note del suo rugby, sulle note del suo blues. Grazie anche a voi. Per A Bordo Campo Sudafrica 2010, nel cuore del mondiale di oggi, è tutto. Un grazie a Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che l'appuntamento con A Bordo Campo Sudafrica 2010 è per sabato prossimo alle 13:15, ma come ogni domenica, domani alle 14:30 c'è il consueto appuntamento con A Bordo Campo e le sue piccole grandi storie dal mondo dello sport. Un saluto da Dario Ricci.